quali saranno le caratteristiche? Saranno recensioni, articoli, giusto? Stiamo sviluppando questa cosa perché ci sono molte proposte. Diari di Cineclub, per esempio, Diari di Cineclub è media partner di un progetto molto importante che si chiama Cinema Anch'io. Cinema Anch'io è un progetto per l'accessibilità culturale per i non vedenti, per le persone che non sentono e per coloro che sono nello spettro autistico. Alcuni hanno proposto, per esempio, una trasmissione che racconti un film, per esempio, per le persone che non possono vedere. E questo è una possibilità. L'altra possibilità è appunto trasmettere quasi in diretta interviste, presentazioni di libri, presentazioni di un film, pubblicizzare un progetto importante. Ecco, questo è il nostro scopo. Come avverrà è una cosa molto semplice che io pure ho scoperto, non ci avevo mai pensato. Oggi basta un cellulare per fare una registrazione. E poi la registrazione può essere trasmessa tramite WhatsApp al numero 335-69-57-535. D'accordo con la radio, dopo se la trasmissione è interessante per il pubblico. Dopo 5 minuti la pubblichiamo sulla radio, dopo aver messo i titoli della trasmissione. Allora, come riferimento ho messo il link radiobrada.com/diari di Cineclub, che è il vostro canale diretto. Benissimo. Ricordiamo il progetto Diari di Cineclub in podcast su Radio Brada. Un saluto e un ringraziamento ad Angelo Tantaro. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, apprezzo e spero di averti tra gli autori di Radio Brada, anche tua importante trasmissione. Allora un abbraccio, Angelo. Grazie, apprezzo.